sempre capace di vedere, cambiare la trasformarsi, di mutare la propria generazione, la propria organizzazione. È una questione di ristrutturazione del lavoro scolastico, cioè di rottura delle pratiche consolidate delle pratiche. È una questione di rendere più formale, l'educazione formale, non per dire che se si divertono, si motivano, e se si motivano sono contentissimi e apprendono con facilità. Sono forse domande che con gli amici in un gruppo di lavoro, con gli insegnanti, a capo ci deve vedere che vedrete oggi pomeriggio, poi parteciperà al laboratorio, annualmente danno vita a questo convegno, siamo delle esperienze che si chiama con gli amici di Arnaus. Quindi avevano invitato per parlare della classe 2.0. Io sostanzialmente mi sentivo di pormi esattamente queste domande, che sono le domande che mi pongo nel momento in cui penso alla didattica, scusate, alla linea di prospettiva didattica. Perdonate la scarsa organizzazione dell'animazione, ma io lavoro in open office nel momento in cui leggo con PowerPoint e anche con cose. Allora, per rispondere a quelle domande vi dicevo, posso fare, se mi passate il termine, lezioni 1.0 con la LIN? Cioè, posso cambiare tutto perché non cambi niente? Sì, posso. E ragiono su 5 delle moltissime caratteristiche che la lezione con la LIN potrebbe mantenere rispetto alla lezione senza lì, può permanere la frontalità con la lingua. E l'impostazione quando è per la quale la maestra di quello che luce, tranquillamente, la luce di quale è stata contestata e la lunghezza. L'istituzione di un sistema di lavoro che è basato sulla definizione dei compiti, lo rompo. No, potrei continuare a ragionare su un sistema di lavoro basato sull'esecuzione di compiti. La centralità della prestazione individuale versus la collaborazione riesco a portare, ma posso continuare a ragionare sulla prestazione individuale. Vieni alla LIMA e ti faccio fare questo. E l'orientamento a progetti che si tira dietro. La traccia turistica da neofita degli insegnanti che nel momento in cui si produce del giochino libera tutte le sue potenzialità e che comincia a curare i suoi oggetti, i manuali perché devono essere bellissimi e così alla fine dimostriamo ai genitori. Cioè, mi sembra che anche l'orientamento agli oggetti, come nella scuola della multimedialità, quella di anni 90, si possa ridurre. Dove passavamo un anno a fare la presentazione multimediale degli oggetti, alla fine di quell'anno abbiamo prodotto un oggetto, in un esame di lettura che avevo fatto da prima, che infatti avevamo messo insieme a noi in 4 notti prima, non dell'esame, ma della presentazione, perché l'avevamo presentato. Da lì finivano nella didattica del dirigente, cioè un cassetto nella direzione scolastica. Allora, quello che voglio dire è che può non cambiare nulla, anche cambiando tutto. Allora, l'esercizio è di provare non a risolvere il problema, ma a suggerire piste di lavoro perché cambiando tutto, cambia qualcosa. Cioè per dare significato ad un'operazione come quella di introduzione delle LIMA nella classe. I protagonisti, come vedete, sono la vecchia lavagna, gesso che lavagna tutto, che va progressivamente in pensione, la LIMA, e qui è una libera componente, ma dovete perdonare che quello che tra l'altro mi è contra questa e i sistemi wireless, perché secondo me l'altro protagonista che non ci tiene mai abbastanza della

ecco perché è andato a finire sulla carriera della medaglia sulla squadra di Spagna, che è una pianta a pensare da una parte a tutti i danni di quel progetto lì, così super tecnologico, con l'esperienza del bambino, in tal modo, di cui parlava prima. E dall'altra parte c'è tutto il discorso relativo alla visualizzazione e alla manipolazione del fatto concetto, che dice tutto il discorso relativo all'espressione della mente, la scena della mente che si proietta fuori sullo schermo e consente di manipolare concetti come fossero oggetti che è un padre e che attribui in maniera. Dall'altra parte la multimedialità che a mio parere è sollecitata proprio nella prospettiva della moltiplicazione dei punti di accesso alla conoscenza. Gartner, direttamente dice, ma Gartner in primo luogo. Quindi discorso interessante, quindi la conseguenza dell'analisi dell'intelligenza multimediale è proprio la possibilità perché i punti mediali moltiplicati i punti di accesso alla conoscenza. E quindi di intercettare un mix differenti di abilità e di stili cognitivi del bambino. Vado a spiegare velocemente le altre due dimensioni e chiudo. Dicevamo allora, tra l'analogia e l'economia della vita, e due immagini, la classe laboratorio e la comunità di apprendimento. Il modello della classe laboratorio dice una didattica, quella con la lingua, centrata sul padre. Quali sono i metodi di questa didattica centrata sul padre? Sono i learning by doing, sono la scrittura collaborativa e quali sono le pratiche di questa didattica centrata sul padre? Il file share e non soltanto il file share e il video. Mi pare, cioè, il podcast come dicevo con Benedetti, mi pare che la linea è un bello spunto, un bel suggerimento per tornare a ragionare di classe laboratoria. Potrebbe non essere una classe laboratoria, cioè potrei utilizzare in prospettiva uno punto, se voglio fare la cosa bene, la luce della prospettiva della classe laboratoria. E l'altra dimensione evocata dall'immagine per la comunità di apprendimento è l'idea di una classe centrata sul collaborare. Tutti i discorsi di Jonassen come modello che sta a monte della didattica centrata sul collaborare, i metodi dalla didattica metacognitiva al problem solving, le pratiche, la lezione dialogata, la costruzione condivisa della conoscenza. Capite che queste quattro cose mentioned, la filosofia, l'economia, classe laboratorio e comunità di apprendimento, sono né più né meno che un primo syllabus di contenuti da approfondire. Potrebbero essere la mappa di un corso metodologico per l'insegnante che vuole migliorare in maniera efficace con la lingua. Sulla base di questa riconcettualizzazione, allora diventa possibile verificare, spostarsi dalla logica di un punto zero, individuando tutti gli usi estremamente ricchi e interessanti della lingua. La lingua come sistema di rappresentazione, la lingua come spazio di struttura collaborativa, la lingua come facilitatore sia nel senso dell'ausilio sia nel senso del supporto. Mi ha già fatto un piccolo intervento con delle reti di scuola che lavorano sul rapporto tra lingua e didattica speciale, a supporto della didattica bella e con la abilità diversa. La lingua come amplificatore degli apprendimenti, il software dedicato va in questa direzione, come spazio di socialità, come mediatore culturale, sarebbe interessantissimo avere come spazio per la didattica culturale basata sull'utilizzazione del contesto, bambini diversi che scrivono, cose diverse che compongono, altri fatti diversi con il dire dello stesso spazio, accompagnando.